È lunedì 5 marzo, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre nell'edizione del lunedì con il titolo Tutte le liste nere del fisco. Invece c'è la Russia che domina un po' le prime pagine dei giornali. Per il Corriere della Sera, Putin si riprende il Cremlino. Repubblica, Putin vince, la Russia è ancora sua. La Stampa, il trionfo annunciato di Putin. E anche il Messaggero, la Russia incorona Putin. Mentre il giornale Zittiamo i Notav, questo è il titolo di apertura. Per l'Unità invece la battaglia di Parigi. In Russia Putin vince al primo turno mentre ci si concentra sulla competizione elettorale francese. Dunque, come vedete, soprattutto attualità internazionale con la vittoria di Putin alle presidenziali in Russia, la terza volta che è al Cremlino. Io però voglio partire da una notizia che oggi è sviluppata dai giornali dopo i funerali ieri di Lucio Dalla a Bologna. Su cosa mi voglio concentrare? Beh, su tutti i giornali troverete tanti commenti, tante analisi sulla presunta, beh, diciamola pure questa parola, ipocrisia che c'è stata ieri nel momento in cui Marco Alemanno, che era il compagno di Lucio Dalla, ha preso la parola in chiesa. Non ipocrisia in quel momento, ma ipocrisia perché? Beh, è stata Lucia Annunziata la prima, ieri è su Rai 3, in mezz'ora, a sdoganare questo termine. Ha detto Lucia Annunziata: i funerali di Lucio Dalla sono uno degli esempi più forti di quello che significa essere gay in Italia. Vai in chiesa, ti concedono i funerali, ti seppelliscono con il rito cattolico, basta che non dici di essere gay. È il simbolo di quello che siamo, cioè il permissivismo, purché ci si volti dall'altra parte. Il problema è questo: Lucio Dalla ha avuto una vita nella quale la sua omosessualità è sempre stata vissuta con una privacy quasi, qualcuno dice, maniacale, tanto che fu criticato spesso anche dalle associazioni gay per il suo mancato coming out. Ebbene, ieri, quando il suo compagno Marco Alemanno, che in vita era sempre stato rappresentato come il suo più stretto collaboratore, ha preso la parola, beh, un po' di questa ipocrisia si è vista in maniera molto molto chiara. E ieri anche il Quotidiano Nazionale, a pagina 3, la presenta così: Marco che lo vede andar via, grazie Lucio, eterno bambino, lo strazio del compagno in chiesa. Tra l'altro il Corriere della Sera mette anche a fianco all'articolo relativo al funerale di Lucio Dalla tutti gli artisti, invece, da Malgioglio a Tiziano Ferro, quando gli artisti scelgono il coming out. Beh, questo è uno dei temi sicuramente che trovate sviluppato sui giornali, con anche l'editoriale che vi voglio leggere di Michele Serra in prima pagina di Repubblica. Il titolo di questo editoriale è Dalla, il compagno in chiesa rompe il velo dell'ipocrisia. Scrive Michele Serra: con la compostezza, il dolore e la legittimità di un vedovo, il giovane Marco Alemanno ha reso pubblico omaggio al suo uomo e maestro, Lucio Dalla, in San Petronio, dopo l'Eucaristia, se non rompendo, almeno scheggiando il monolito di ipocrisia che grava nell'ufficialità cattolica sul disordine etico nelle sue varie forme, l'omosessualità sopra ogni altra. È importante prenderne atto. Anche se è altrettanto importante sapere che fuori dalla Basilica, nel denso, sconfinato abbraccio che i bolognesi hanno dedicato a Dalla, i suoi costumi privati non costituivano motivo di dibattito, se non per lodare e rimpiangere la dimestichezza di strada e di osteria che Dalla aveva con chiunque, il suo promiscuo prendere e dare parole, tempo e compagnia, la sua disponibilità umana. Ma dentro San Petronio, la vita privata di Lucio, la sua omosessualità pure così poco ostentata e mai rivendicata, creava un grumo che Bologna ha provveduto a sciogliere nella sua maniera, che è compromissoria, strutturalmente consociativa, città rossa e vicecapitale del papato, massonica e curiale, borghese e comunista, un consociativismo interpretato al meglio proprio da Dalla, che era quasi amico di tutti, interessato quasi a tutti. Non avere nemici è molto raramente un merito, e nel suo caso lo era. In ogni modo si capisce che quel grumo, specie per una curia che da Biffi in poi si è guadagnata una fama piuttosto retriva, non era semplice da gestire. Il vescovo non era presente, il numero due neppure, altri impegni incombevano. E sarebbe infierire domandarsi quale impegno ieri fosse più impellente per ogni singolo abitante della città di Bologna di andare a salutare Lucio. L'omelia è stata affidata al padre domenicano Bernardo Boschi, amico personale del cantante, che non avendo zavorre istituzionali sulle spalle, ha potuto e saputo essere affettuoso, rispettoso e libero, dunque prossimo alla città e ai suoi sentimenti. Insomma, nei funerali di Lucio Dalla è andata in scena anche questa vicenda, anche se tutti i giornali ancora, per esempio sul giornale è definito l'amico Alemanno, finalmente posso dirti grazie, questo a pagina 24. Vi segnalo anche una pagina del secolo XIX che invece in maniera manifesta scrive: in chiesa si svela l'amore di Marco, grazie Lucio. E qui c'è anche la forza del titolo, proprio in chiesa si svela l'amore di Marco. E dunque, diciamo, se si vuole, il coming out postumo e non da parte del protagonista di Lucio Dalla, che avviene proprio in chiesa. La seconda notizia che vi voglio dare prima della pubblicità riguarda le sorti di Rossella Urru, la cooperante italiana di 30 anni, che sembrava davvero atroce beffa, no? Ci sono titoli di giornali ieri che titolano Rossella Urru libera e liberata. In realtà purtroppo non è così. La situazione è ancora molto complicata, è stata rapita in Algeria il 23 ottobre del 2011, ieri appunto è stata diffusa la notizia, poi non confermata dal nostro Ministero degli Esteri dell'avvenuta liberazione. In realtà Rossella, scrive il Messaggero, che scrive l'articolo, sembra più informato sulle sue vicende, è stata ceduta a mediatori, ora la liberazione è più vicina. Dunque una liberazione che sembra vicina ma non è ancora avvenuta. Massimo Martinelli ne scrive in prima pagina: è stata liberata da Al-Qaeda da 2 giorni ma non è ancora in mani sicure. Così Rossella Urru ha fatto un piccolo passo verso l'Italia, la sua famiglia e i suoi amici, anche se ancora la cooperante rapita il 23 ottobre scorso in Algeria non è in completa sicurezza. Potrebbe essere stata appunto ceduta dai rappresentanti di un'organizzazione vicina ad Al-Qaeda a mediatori, il che è un segnale positivo, ma certo non positivo quanto quello che si scriveva ieri sui giornali. Anche per il Corriere della Sera la liberazione di Rossella è stata fermata all'ultimo minuto, ne scrive un altro giornalista molto esperto di cose africane, vale a dire Massimo Alberizzi. Rossella Urru, scrive Alberizzi, sarebbe in Mali, ma per la sua liberazione all'ultimo momento è sorto qualche intoppo, non è ancora chiaro quale. Bocche cucite nella capitale del Mali, Bamako, anche se lo stringer del Corriere, cioè il giornalista del luogo che collabora con il Corriere, per tutto il giorno ha ripetuto: Rossella è qui nel paese, probabilmente nel nord, le trattative si sono concluse, stava partendo per Bamako, poi qualcosa è andato storto. Che cosa è andato storto? Potrebbe essere stato delle nuove pretese da parte dei mediatori che ora lo avrebbero in consegna, che dopo la liberazione di un presunto terrorista vorrebbero anche la liberazione di un'altra persona o forse soldi. Secondo il secolo XIX è questa la seconda versione: sono soldi, la trattativa si gioca su 30 milioni, così titola il secolo XIX a pagina 8. Speriamo però davvero che possano essere gli ultimi giorni prima della fine di questa vicenda, che negli ultimi tempi ha raccolto anche una giusta attenzione mediatica legata a Rossella Urru. Siamo qui allora alle 7:36 minuti, continuiamo nella lettura dei quotidiani. Certo, le proteste contro la TAV sono ancora in primo piano su tutti i giornali. Allora, la situazione sembra relativamente tranquilla per il momento, ma sarà una tregua per il weekend. C'è solo una persona che viene definita pacifista, c'è anche incertezza sul cognome, a me risulta si chiami Turi Vaccaro, ma il Corriere la presenta come Turi Varano. Comunque lo vedrete bene rappresentato in alcune foto sia dal Corriere della Sera sia dal Quotidiano Nazionale. Cosa ha fatto questo Turi Vaccaro pacifista? è salito ed è attualmente, mi risulta, ha passato lì la notte sul traliccio dove Luca Ba era salito qualche giorno fa, e con risultati nefasti, visto che è stato fulminato, è caduto, fortunatamente adesso è fuori dal pericolo di vita, ma è insomma in gravi condizioni. Ebbene, questo Turi Vaccaro lo vedete nelle foto dei giornali ieri in una manifestazione a torso nudo. Il Corriere scrive: vestito da folletto, si aggira tra gli agenti suonando un piffero, con i capelli molto lunghi, la barba incolta, delle braghe un po' strane, così, pacifista, segnalato un paio d'anni fa perché ha sfondato a martellate due F-35 aerei da caccia militari in Olanda. È salito ieri sul traliccio con alcune coperte per passare la notte e lì ha detto: se do fastidio al movimento scendo, non voglio buttarmi, sono pronto a scendere, finora non sono riuscito a farmi passare per pazzo nonostante le pazzie che faccio. Diciamo, questa è la situazione al momento di ordine pubblico un po' più delicata. La situazione, la discussione sulla TAV si incentra su cosa? Sul fatto che Repubblica scrive: ora bisogna capire come uscire da questa situazione. Beh, il governo ieri col sottosegretario Catricalà ha ribadito la TAV, cioè costruire la TAV, è un dovere morale che ormai ci siamo impegnati ad assumere e quindi andiamo avanti. Su Repubblica c'è l'articolo più interessante, perché Paolo Griseri e Liana Milella racconta di quello che avrebbe messo a punto come piano il governo per convincere la Val di Susa. Pronti 50 milioni di euro. In che cosa? In tre bonus, vengono definiti così, tre bonus per addolcire l'amara pillola della TAV. Li trovate a pagina 6 di Repubblica. Quali sono questi bonus? Il primo: poderosi sgravi fiscali per i comuni coinvolti in base alla vicinanza al cantiere. Secondo bonus, un sistema di convenzioni tra la stazione appaltante e i comuni, per cui tutti i dipendenti dei cantieri mangerebbero e dormirebbero presso i comuni medesimi. Considerati i tempi dell'opera, 10 anni, è facile intuire quali sarebbero i vantaggi per l'indotto alberghiero della zona. Terzo bonus, corsi di formazione per gli abitanti della valle, che una volta riqualificati verrebbero occupati nei cantieri. Si tratta in qualche modo delle cosiddette misure di compensazione, cui faceva riferimento anche a questi microfoni due giorni fa il governatore del Piemonte Roberto Cota. Cioè, si tratta di uscire da questa situazione di grave impasse anche di ordine pubblico con il sistema appunto delle compensazioni. D'altronde, guardate, la questione del non si tollera la violenza sono voci ormai da tutte le parti, arrivano oggi. Luciano Violante del Partito Democratico fa un'intervista al Corriere della Sera dicendo: non è resistenza, per carità, la Val di Susa ha conosciuto azioni partigiane di guerra, ma questa ne è solo una squallida parodia. Non bisogna tollerare questa violenza, non si può avere un atteggiamento compassionevole verso i violenti come se difendessero una nobile causa, questo può indurre altri sprovveduti a seguirne l'esempio. È Luciano Violante che parla, ma anche Don Ciotti in un'intervista al fondatore di Abele, in un'intervista alla Stampa, dice: assolutamente questa non è resistenza, non bisogna fare violenze, e è molto anche seccato, per usare un eufemismo, Don Ciotti, delle accuse che vengono rivolte al procuratore capo di Torino, Caselli. Sta di fatto che invece dall'altra parte Alberto Perino, oggi trovate i nostri amici della Zanzara, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, a pagina 3 del giornale, una mezza pagina. Sapete che Alberto Perino li ha presi a gentili parole, no? Siete degli sciacalli, delle iene e delle merde, ha detto in diretta qualche giorno fa. Ebbene, Alberto Perino ieri si è distinto perché ha detto questo, scrive il giornale: gli scontri degli ultimi giorni hanno dimostrato la brutalità della polizia, hanno gettato la maschera, hanno fatto la caccia all'uomo proprio come fecero i nazisti. L'ultimo sfregio dei Notav, polizia nazista, questo è il titolo a pagina 3 del giornale, e per questo il giornale mette in prima pagina il titolo: zittiamo i Notav. Vabbè, questa è la situazione Notav o Tav, che avrà certamente degli sviluppi. Io voglio concentrarmi però sul tema della lotta all'evasione fiscale, che è l'apertura del Sole 24 Ore edizione del lunedì. Il titolo di prima pagina del Sole è questo: tutte le liste nere del fisco, perché sono ormai 14 le liste nere del fisco, elenchi di contribuenti, persone fisiche e società che l'amministrazione finanziaria può sottoporre a controllo perché ritenuti a rischio evasione. Un elenco dei furbetti dello scontrino previsto dal decreto fiscale entrato in vigore venerdì è solo l'ultimo di una lunga serie. Ad accendere la spia dell'irregolarità può essere il possesso o l'uso di beni di lusso non in linea con gli importi dichiarati, come nel caso delle liste alimentate dal redditometro. Ma tra gli elenchi in arrivo c'è anche quello previsto dal decreto Salva Italia. Sarà elaborato con le informazioni dei movimenti sui conti correnti. Tutti i dettagli li trovate a pagina 3 con Valentina Melis e Giovanni Parente. L'amministrazione conta ormai 14 liste nere. L'ultima appunto arrivata è quella dei furbetti dello scontrino, ma anche al controllo dei conti correnti, i beni ai soci, le blacklist, le liste integrative, gli studi di settore, le operazioni comunitarie, insomma ce n'è per tutti i gusti per controllare i presunti evasori. Tra l'altro il Sole 24 Ore ha fatto un'elaborazione sui cosiddetti blitz antiscontrino, no? Il primo che ha fatto più scalpore è stato quello di Cortina. Ebbene, il 50% fuori legge, questo si legge in prima pagina del Sole. È un'allergia tutta italiana, un esercente su due proprio non riesce a emettere lo scontrino e la ricevuta fiscale al proprio cliente. Questo è il bilancio dei principali blitz anti-evasione effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nei primi due mesi del 2012 a nord e a sud, sia Milano sia Cortina. Sotto osservazione che cosa? Le vie dello shopping, i locali della movida, i mercatini ambulanti. Dal 50% delle verifiche emergono omissioni o irregolarità nell'emissione dello scontrino. In alcuni centri sono state raggiunte punte dell'80%, ma non basta. A questo si aggiungono anche altre violazioni riscontrate sul campo, dagli addetti non in regola alla vendita di merci contraffatte. A pagina 2 del Sole, Marco Mobili e Giovanni Parente raccontano i dettagli dunque di questo 50%, uno su due irregolari per quel che riguarda l'emissione di scontrini e fatture. Leggete e divertitevi a pagina 2 del Sole. E invece la politica si concentra su cosa? C'è una noiosissima bozza sulle riforme che è partita per cercare di ridurre del 20% i parlamentari e fare un nuovo sistema parlamentare anche che dia più potere al Premier. E poi c'è, secondo me, una più interessante situazione, l'ennesima scoppola al Partito Democratico, almeno al Partito di Roma, perché a Palermo Rita Borsellino, che era il candidato alle primarie per correre a sindaco per il centro-sinistra, ha perso, come a Genova era successo il casino, no? Con Marta Vincenzi, i pazzi, ve lo ricordate, che poi era un po' pazziata qui anche ai microfoni di Radio 24. Ora Rita Borsellino, che sarà il nostro ospite alle 8:20. Eccoci qua, alle 7:47 minuti, dicevo, allora, questa noiosa discussione su una bozza, sulle riforme presentate da alcuni parlamentari in maniera bipartisan, il testo messo a punto da Luciano Violante, Gaetano Quagliariello, Italo Bocchino, Ferdinando Adornato e Pino Pisicchio. Se volete leggere i dettagli, a pagina 12 della Stampa, a pagina 13 del Corriere della Sera, a pagina 10 e 11 di Repubblica, una riforma che prevede una riduzione del 20% dei parlamentari, ma non dovevano dimezzarli. Vabbè. Ma io dico, magari si tagliassero del 20%, ma guardate che bisogna in queste cose giocare molto con l'asticella bassa, perché appunto dovevano dimezzarli in un paio di mesi. Adesso in questa riforma che si dice avrà una corsia preferenziale velocissima, discuteremo, c'è un taglio previsto del 20%. Dal 50 al 20, vedremo nel 2013 quanti parlamentari saranno stati tagliati. E invece la situazione più politica, un po' più, se volete, frizzante, che porterà qualche polemica nei giorni prossimi, statene certi, è quella delle primarie di Palermo. Il centro-sinistra ha fatto le primarie per scegliere il candidato sindaco a Palermo, ha vinto uno dell'ex dell'Italia dei Valori, Ferrandelli, che una volta che si è candidato alle primarie del Partito Democratico senza l'appoggio del PD e senza l'autorizzazione del PD, il PD ha detto no, noi allora appoggiamo Rita Borsellino. Risultato, Rita Borsellino ha perso. 30.000 circa le persone che sono andate a votare. Stavolta Rita Borsellino, tra l'altro, era appoggiata anche da Nichi Vendola, quindi ha vinto l'ennesimo candidato dopo Genova, dopo altre situazioni, dopo anche sindaci come De Magistris, come Pisapia, appoggiato dai movimenti. I movimenti, una trentina di movimenti hanno appoggiato Ferrandelli, che ha vinto le primarie. Rita Borsellino, sostenuta dal PD, da SEL di Nichi Vendola, dall'Italia dei Valori, e ha perso. E tra l'altro oggi leggerete giornali su questa notizia, vecchi, perché la notizia della vittoria di Ferrandelli è della notte, quando i giornali erano già andati in stampa. E Rita Borsellino, se solo avessi potuto immaginare la dose di cattiveria che avrei dovuto inalare in queste primarie, altro che rinuncia, fuga nelle mura di casa avrei fatto. Chissà oggi che ci dice. In ogni caso, trovate invece, per quel che riguarda la politica, un'interessante pagina sul Corriere della Sera che vi segnalo, pagina 23, che riguarda Formigoni e Don Verzè, lo scomparso sacerdote fondatore del San Raffaele. Formigoni scrisse a Don Verzè: ecco i miei atti su misura per te. Questa è un'intera pagina a firma Mario Gerevini e Simona Ravizza, e l'anticipazione di un libro che esce domani dal titolo I segreti di Don Verzè, nel quale ci sono anche conversazioni riportate di stralci audio di quando Don Verzè incontrava l'allora capo del SISMI, Nicolò Pollari, che gli diceva, scrive il Corriere della Sera, io difendo Geronzi. Io ho protetto Geronzi, quattro parole sussurrate da Nicolò Pollari a Don Verzè il 13 gennaio 2006 nell'ufficio privato del prete manager, e c'erano però le intercettazioni ambientali. Ma poi ci sono anche questi nel 2001, quando Don Verzè scrive all'allora governatore della Lombardia, ancora governatore e già governatore per meglio dire, Formigoni, c'era bisogno di battere cassa, scrive il Corriere della Sera, ed ecco allora che i toni sono molto sbrigativi, ma la regione non potrebbe fare differenze, non dovrebbe. Ed ecco allora cosa scrive, cosa risponde Formigoni: carissimo Don Luigi, ritengo il tuo giudizio un po' ingeneroso, segue l'elenco dei favori fatti dalla regione all'ospedale milanese. Accreditamento non regolare di posti letto col servizio sanitario, rimborsi discutibili. Norme e regolamenti confezionati sartorialmente per far guadagnare di più il San Raffaele. Nella fase di accreditamento di Villa Turro si è consentita la trasformazione di posti letto in psichiatria e in riabilitazione per ottimizzare la fatturazione delle prestazioni rese, ma la tariffa è più remunerativa. Insomma, conclude Formigoni, è stato un susseguirsi di tentativi di trovare soluzioni a problemi, ovviamente nel rispetto delle leggi, scrive comunque Formigoni. Che dire, sui giornali trovate in rapida conclusione anche di cronaca, col terribile omicidio di quattro persone di Brescia, con Mario Albanese, autore della tragedia che ha ucciso l'ex moglie, il compagno dell'attuale moglie e due figli che l'ex moglie aveva avuto da la figlia che aveva avuto da una precedente relazione e il ragazzo di questa ragazza. Insomma, una tragedia, la follia annunciata ripetutamente, perché da anni, dice la donna, mi perseguitava. Trovate anche molto ovviamente della Russia di Putin, ma che dire, io devo andare a concludere e allora voglio leggere il titolo della Gazzetta, se trovo la Gazzetta dello Sport. Stai a vedere che non me la sono portata in onda, non me la sono portata in onda. E allora che dobbiamo fare? Qual è il titolo della Gazzetta? Tu, Peter Bescapetto, lo ricordi? Sarà Grande Milan. Comunque sembra. No, vabbè, c'è stato la domenica, no? 2-2 l'Inter ha pareggiato, e quindi il titolo sarà sull'Inter, immagino. E a me non è che posso inventare il titolo della Gazzetta, non c'è. E vabbè, allora che dire. Era più bello però. Ah, ecco, c'è quella di domenica. L'avevano abbandonata qui in studio. Leggo il titolo della Gazzetta di ieri: Ibra bim bum bam. Però non trovate in edicola questo titolo, però è così, cioè, è capitata a tiro quella di ieri, la Gazzetta dello Sport di domenica 4 marzo, ma oggi è lunedì 5 marzo, Ibra bim bum bam. Vabbè, citiamo questo, va bene lo stesso, no? Giornale Radio.